Si può fare. L'attualità anche d'estate di Alessio Maurizi. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. 18, 20 e 30 all'orario Si può fare l'attualità anche d'estate con i vostri interventi. 800 24 00 24 anche in questo venerdì che sa molto di vacanza, per chi è in vacanza, per chi invece è come me, Gabardini. Buonasera Carlo Gabardini. Buonasera a tutti. È qua a lavorare, ma insomma sì, finalmente, tu sei stagista, tu sei stagista peraltro. Sono contentissimo di essere confermato tornato. Per ora, poi vediamo cioè, perché fino ad oggi. Oggi, alla fine di oggi, che è venerdì, sapremo se sono confermato anche per la prossima settimana, giusto? 349-238-6666 per i vostri sms. Siamo anche su Facebook, lo ricordo, Si può fare Radio 24, poi su Twitter Si può fare 24. Allora cominciamo subito con i titoli di Sky TG24, poi cominceremo questa spumeggiante puntata. Berlusconi ribadisce: l'IMU non va pagata, lo prevede l'accordo di governo. Letta teme un autunno caldo sul fronte lavoro. Si è definitivo al decreto del fare, novità dal fisco alla giustizia, sconto sulle multe ai guidatori virtuosi e arriva il wifi libero. Varata la legge, la Camera si ferma, polemica per le vacanze in tempo di crisi, Boldrini precisa, Montecitorio non chiude. La pioggia piega il nord Italia, problemi per i nubifragi e la grandine, i danni ammontano oltre 60 milioni di euro. Una telefonata a sorpresa per lenire il dolore, Papa Francesco chiama il fratello di un imprenditore ucciso in una rapina. L'ultimo mistero di Leonardo, riesumati i resti del figlio, il DNA sarà confrontato con quello della presunta Mona Lisa. Il Milan pesca il PSV nei preliminari di Champions, in Europa League Grasshoppers e Slovan per Fiorentina e Udinese. Dai campioni d'Europa agli emigrati italiani scattano i campionati in Germania e Francia, tutte le partite sono su Sky. Lavoriamo determinatissimi, aggiungo anche che abbiamo fissato il 23 di agosto la prossima riunione del Consiglio dei Ministri, noi due oltre altri ministri saremo qui in sede la prossima settimana alternandoci, quindi per quanto ci riguarda il governo non va in vacanza. Siamo abituati a essere una nave che naviga sempre tra tempeste, onde, marosi, eccetera, però insomma la nave sta dimostrando di essere più solida di quello che i nostri detrattori pensano, i nostri detrattori generali pensano. Ma come con me? In questi primi sei mesi il Parlamento non ha approvato nessuna legge di iniziativa parlamentare e questa è una vergogna e una violazione della Costituzione italiana, per qualcuno la più bella del mondo. Buone vacanze. Onorevole Di Battista, lei sa che c'è l'impegno mio e di questa Assemblea per riformare il regolamento. La Giunta per il Regolamento sta lavorando su questo e lei sa anche che le iniziative popolari, le leggi di iniziative popolari sono all'attenzione della Giunta e del Comitato, così come sono all'attenzione tutti gli altri provvedimenti che porteranno alla centralità del Parlamento. Oh, il tema della puntata di oggi è, non poteva che essere così, le vacanze, i politici che vanno in vacanza, insomma Letta ha detto che lui e Alfano restano a Palazzo Chigi, noi non vanno in vacanza. Un po' come noi direi. Io e Tere stiamo qua in studio e loro restano lì a Palazzo Chigi a presidiare. tu dove vai in vacanza? Non vai? Io non vado in vacanza, mi sa che presidio lo studio di Radio 24, direi, giusto? Benissimo, benissimo, questo ci rincuora molto. Il tema delle vacanze, però, perché invece avete sentito la dichiarazione dell'esponente del Movimento 5 Stelle, che se la prende col fatto che il Parlamento in questi primi mesi di attività non ha votato una legge di iniziativa parlamentare. Questo Di Battista, gli risponde Laura Boldrini, che dice: faremo la massima attenzione. Del resto aveva già sollevato Berlusconi anni fa, nel 2009, il fatto che aveva detto il Parlamento è inutile, anzi è addirittura controproducente. Solo che Berlusconi diceva che era controproducente perché avrebbe voluto farne forse a meno per approvare le sue leggi. Di Battista del 5 Stelle invece vorrebbe che il Parlamento lavorasse di più per fare delle leggi. Del resto, quando sei al governo vorresti fare a meno del Parlamento, quando sei, come Di Battista, all'opposizione non hai che provare a fare qualcosa del Parlamento. E quindi è una questione anche di punti di vista. Va bene, sentiamo invece l'analisi di Massimo Cacciari sul futuro prossimo immediato, come va a finire tra il PD e il PDL dopo la sentenza della Cassazione su Berlusconi. Il Partito Democratico può reggere al governo soltanto se Berlusconi si allontana, e il Popolo delle Libertà può stare al governo soltanto se è protetto sotto l'ombra del potere di Berlusconi. Poi sempre Cacciari sulla successione di cui parlano i giornali del centrodestra di Marina Berlusconi. Una bufalata. Cioè? Non esiste la dinastia, non esiste la possibilità che a Berlusconi Silvio succeda Berlusconi Maria. Non si sa perché, secondo lui è una bufalata, però Cacciari dice così, insomma. Si alternano commenti di chi dice, è possibile, sarebbe anche auspicabile, e chi dice, ma che state dicendo? In effetti è una cosa di fantapolitica, no? Tu hai mai sentito un comizio di Marina Berlusconi, Gabardini? Beh, no. Comizi no, di dichiarazioni sui giornali sì. No, due volte all'anno, in qualche occasione, quindi c'è... È una notizia fresca per quest'estate, direi, questa successione. L'hanno un po' fatta apposta. Sarebbe un passaggio davvero strano, insomma, straordinario. Sentiamo Alemanno su questo argomento qua. Alemanno che ha già detto che non entrerà comunque in Forza Italia e farà qualcosa di destra. Non ho nulla contro Marina Berlusconi, ma penso che oggi più che mai il centrodestra abbia bisogno di un bagno di democrazia nel scegliere il futuro candidato a premier. Quindi abbiamo bisogno anche noi di primarie. Lentamente un aeroplano si riduce ad un puntino dentro il blu, la mia speranza anche quest'anno no, niente vacanza. Io credo che gli italiani abbiano diritto di sapere se il giudice Esposito arriva a mentire, arriva a dire bugie pur di salvaguardare se stesso. Gli italiani hanno diritto di sapere se Esposito è un bugiardo oppure no. Poi saranno loro non cambia nulla perché ovviamente non si compromette la sentenza, ma si compromette la credibilità del giudice che ha emesso la sentenza. Intanto, mentre viene rinviato il provvedimento sulla riforma del finanziamento pubblico dei partiti, è rinviata la legge elettorale, è rinviata l'IMU, non si sa che fine farà, è stato approvato invece lo svuota carceri. Questa è l'idea di Maroni, il suo svuota carceri. Serviranno anche accordi bilaterali, ma l'unica vera soluzione al problema del sovraffollamento delle carceri è questo: i cittadini extracomunitari condannati devono scontare il carcere nel loro paese d'origine. E salutiamo il primo ospite di questa sera, Roberto Fico, l'onorevole, il deputato del Movimento 5 Stelle. Buon pomeriggio, buonasera Fico. Buon pomeriggio, buonasera a tutti. Presidente, tra l'altro, della Commissione di Vigilanza RAI, e c'è anche la questione Mission, il reality, quello di adesso parleremo anche di questo, perché sembra che la RAI abbia un po' corretto dopo che si è sollevato questa polemica qua, un po' estiva, ma insomma ci sono tante cose. Facciamo un bilancio di questi primi mesi di attività, visto che adesso si va in vacanza. Anche voi siete all'ultimo giorno di lavoro, no Fico? Sì, questa mattina abbiamo fatto l'ultima seduta della Camera dei Deputati, adesso sono in commissione di vigilanza e a chiudere le ultime cose verso le 8 o le 9 finiamo, e domani mattina ferie. Va bene, facciamo una breve pausa per il traffico, Good News Traffico, e poi torniamo tra un attimo. And now, the good news! A Mestre, il titolare di un'impresa edile è riuscito a far pignorare la Deutsche Bank per quasi 100.000 euro. La banca è stata condannata dal Tribunale di Venezia alla restituzione degli interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e di altre spese non dovute. Per una volta, Davide 1, Golia 0. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua in compagnia di Roberto Fico, onorevole del Movimento 5 Stelle. Potremmo partire dall'ultima cosa che è accaduta oggi. Oggi si ricordava, o abbiamo capito male, Enzo Biagi alla Camera? Sì, si ricordava Enzo Biagi ed è un ricordo a cui tutto il Movimento 5 Stelle si è chiaramente, anche il Movimento, sì, ha voluto ricordare. Come mai questo ricordo intanto? No, l'unica cosa che è successa, sì, questa mattina alla Camera dei Deputati è che giustamente un deputato del PD ha ricordato e ha voluto ricordare Enzo Biagi, però io ho voluto ricordare ai deputati del PD che Silvio Berlusconi, che oggi è condannato in via definitiva, aveva cacciato Enzo Biagi con la sua trasmissione Il Fatto dalla RAI. E che quindi però queste stesse persone oggi che ricordano Enzo Biagi stanno governando con Silvio Berlusconi, e quindi si deve sempre raccontare tutta quanta la storia per avere poi chiara la situazione attuale. Non ci si può dividere in scompartimenti e non ricordare tutto quello che è successo man mano negli anni. Cioè voi dite l'ipocrisia del PD che sta col PDL è colpevole di aver allontanato, però non è dimostrato che Berlusconi, quando disse quella famosa frase, il cosiddetto editto bulgaro, poi ci furono i contratti non rinnovati a Enzo Biagi, qualcuno disse che era quella la questione, però non è dimostrato, insomma. Sì, non è dimostrato, però chiaramente nasce tutto quanto da lì, non c'è, su questo secondo me non c'è dubbio. E così fu all'epoca per appunto Guzzanti e per Luttazzi. Senta, comunque è, sì, il compleanno di Enzo Biagi. Ecco perché avete fatto, c'è, sì, stato questo ricordo, sì, sì, alla Camera. Il Parlamento va in vacanza, che bilancio fate voi di questa prima fase che vi ha visto, diciamo, inizialmente corteggiati dal PD, eccetera, poi decaduta ogni ipotesi di alleanza, ribaduta più volte, più e più e più volte da Grillo, sì, il vostro leader, da tutti noi e anche da tutti voi, sì, però qualcuno di voi ogni tanto, anche nell'ultimo weekend, no, dopo la condanna di Berlusconi, qualcuno aveva teso di nuovo la mano al PD, c'erano delle dichiarazioni che abbiamo anche sentito, però poi... Ma in realtà la linea generale è quella che noi abbiamo dei punti fondamentali, sì, come il reddito di cittadinanza, l'abolizione... No, ma questo lo sappiamo, però c'è un po' questa cosa di fare delle aperture e poi però di fare marcia indietro, questa cosa un po' c'è. No, però le devo dire la verità, no, perché molto spesso basta dire anche una frase, cercare di fare un ragionamento che subito, sì, si parla di alleanza. Per esempio io le posso dire che oggi nel Parlamento, se noi vogliamo cambiare la legge elettorale, lo possiamo fare subito. Se vogliamo dare il reddito di cittadinanza, avendo il Movimento 5 Stelle trovate tutte le coperture finanziarie, lo possiamo votare subito sia in Commissione che in Aula. Non c'è bisogno di nessun tipo di accordo. Il Parlamento c'è e deve funzionare. Ci sono i deputati e i senatori che possono tranquillamente votare le leggi che vanno nell'interesse collettivo di tutti gli italiani. Ecco, questo a me però ha colpito, perché parlando di leggi, no, ha colpito questa dichiarazione del suo collega Di Battista, io non avevo annotato questo aspetto, che in questi primi mesi di attività parlamentare non una legge di iniziativa parlamentare è stata approvata. Quindi questo è gravissimo, gravissimo. E le dico un'altra cosa, che nella scorsa legislatura è stata approvata una legge di iniziativa parlamentare ogni 15-16 mesi di media. Quindi, sempre troppo poco. Ma quando Berlusconi diceva al Parlamento era inutile, addirittura controproducente, è questo il senso della riforma istituzionale che vogliono fare col PD, cioè rendere ancora meno influente il Parlamento? Esatto, vanno in questa direzione qua, ma come al solito vanno e scavalcano la Costituzione, perché nella Costituzione noi abbiamo la divisione dei poteri, che è quello giudiziario, quello legislativo e quello esecutivo, ed è il Parlamento che fa le leggi e controlla chiaramente e propone alcune cose al governo, e il governo è l'esecutivo, e non può il Parlamento essere solo un mero esecutore dell'esecutivo, se no si stravolge proprio il senso e l'equilibrio dei poteri costituzionali. Quindi noi stiamo affermando con forza, l'abbiamo affermato quando abbiamo fatto una maratona parlamentare che è durata 53 ore di fila, che il Parlamento deve tornare il centro legislativo del Paese, perché è lì che si discute, è lì che si ci confronta, è lì che si analizzano i dati per il bene e l'interesse pubblico, perché in questo modo, se fino ad oggi noi non abbiamo fatto una sola legge di iniziativa parlamentare, è chiaro che questo Parlamento così com'è non serve, e quindi ci dobbiamo restituire assolutamente dignità e potere legislativo, cosa che tutti i governi negli anni hanno levato, sia di destra che di sinistra, con continui decreti. Senta, tra le cose che sono state rinviate, anche la vostra proposta sull'ineleggibilità di Berlusconi, così come anche l'incandidabilità dopo la sentenza della Cassazione, è stata rimandata anche quella a settembre. Sì, perché questo è un governo fondamentalmente che è schiavo di se stesso, quindi non può mai decidere cose e situazioni importanti per il Paese o magari far rispettare le leggi che ci sono, perché è un governo veramente schiavo di se stesso, con una maggioranza ampissima, e il paradosso è che con una maggioranza ampissima non possono fare alcune cose. Secondo lei però potrebbe succedere che il voto segreto sull'incandidabilità in aula a settembre salvi Berlusconi? Può succedere di tutto, assolutamente sì. L'unica cosa di cui io sono certo al 100% è che il Movimento 5 Stelle voterà secondo il rispetto della legge. È l'unica cosa di cui sono certo. Cioè per la decadenza di Berlusconi Silvio da senatore? Sì. Assolutamente sì. Però questa ipotesi che si allunghino i tempi, perché poi come funzionerebbe, Fico? Cioè, se questo voto non ci fosse, ci si aprirebbe un contenzioso tra il Parlamento e la Corte Costituzionale? Se questo voto non ci fosse, andiamo a vedere, sì, sicuramente ci sono delle altre strade, si aprono dei contenziosi. Si allungherebbero comunque i tempi, e questo consentirebbe al governo Letta di andare avanti tranquillamente. Quindi, secondo voi, questa è un'ipotesi, cioè il PD potrebbe farla questa cosa qua, potrebbe non votare per la decadenza, anche se hanno detto che avrebbero votato, però il voto sarà segreto? È una cosa che ci vedremo quando accadrà. Noi spingeremo, cercheremo di convincere il Parlamento sulle buone ragioni del fatto che Berlusconi decada come senatore. C'è una legge che lo dice, lui è una condanna a 4 anni e quindi deve decadere da senatore, assolutamente. E già abbiamo già presentato poi l'ineleggibilità, adesso c'è anche la condanna a 4 anni che quindi va nei sensi della legge Severino, quindi non c'è assolutamente dubbio che in questo momento Berlusconi non può essere più senatore della Repubblica. E nonostante tutto, anche secondo me, se Berlusconi non sarà più senatore della Repubblica, comunque il patto è molto forte tra PD e PDL, è un patto che va avanti da 20 anni, e non credo che un'altra maggioranza, un altro governo sia di maggiore tutela o copertura politica. C'è un patto che va avanti da 20 anni addirittura, Fico, un vero e proprio patto. Anche a tutti gli ascoltatori consiglio di andare su YouTube e cercare Luciano Violante, discorso alla Camera dei Deputati sull'ineleggibilità di Berlusconi. Vediamo che nel 2003, il discorso del 2003, Violante dice a tutto il Parlamento, alla Camera dei Deputati, che avevano garantito di non toccare le televisioni a Berlusconi, vicino era seduto Fassino, e che non avevano garantito anche l'eleggibilità di Berlusconi, quando nella giunta poteva tranquillamente essere dichiarata l'ineleggibilità. Questo è un patto che va avanti da 20 anni, però io mi chiedo, anche in quel discorso, se loro hanno dato questo a Berlusconi, ed è pubblico il video, ed è pubblico chiaramente sul resoconto stenografico della Camera dei Deputati tutto quello che sto dicendo, cosa ha avuto il PD in cambio? Cosa ha avuto la dirigenza, i D'Alema, i Violante, i Fassino? Non lo so, bisognerebbe chiederlo a loro. Lo dobbiamo chiedere a loro. Senta, ma allora credo che però questo patto è il patto che ha tenuto l'Italia bloccata per questi 20 anni. Però voi come provenienza elettorale, voi grillini, venite da queste due parti, cioè da una parte dal centro-destra e una parte dal centro-sinistra, e quindi finché c'è questa situazione tripartitica rischiate di essere sempre ininfluente, cioè divisi tra appoggiare o non appoggiare, tra allearsi e non allearsi, anzi essere nemici di sia del PD che del PDL, e quindi rischiate l'ininfluenza perenne. Ma io le dico che più che venire dal centrodestra, dal centrosinistra, dal PD o dal PDL o da altre forze politiche, noi stiamo cercando di costruire davvero un pensiero nuovo di riforma della politica, di riforma di... Ma con chi lo fate questa cosa? Perché quello che pensano i cittadini... Questa è una cosa che stiamo facendo con tutti i cittadini, stiamo ristabilendo un'agenda politica. Però voi siete in Parlamento, no? La gente vi guarda, e quello che pensano in molti è questo, che di fatto vi siete candidati a essere ininfluenti, perché non riuscite mai a incidere. Però questo non è vero, perché noi stiamo cercando sia di smascherare un meccanismo che va avanti da 20 anni portando tutto fuori, e questo crea sguardi vigili, crea cultura e crea un nuovo modo di fare politica che ci può far veramente uscire dalla situazione in cui ci troviamo. E nonostante tutto quello che noi proponiamo, che diciamo, siccome sono cose di buonsenso e giusto per tutti gli italiani, i partiti man mano cercano in qualche modo di andare vicino e di realizzarli. Tipo, si parla dei rimborsi elettorali. I rimborsi elettorali sono soldi che i partiti rubano a norma di legge da 20 anni, e non se ne era mai parlato. Se ne parla adesso grazie al Movimento, hanno iniziato ad attuare una riduzione con una fatica enorme, ma hanno iniziato ad attuare, e così via anche su altre cose. Quindi il buon esempio, tirare fuori l'agenda politica del Paese, quella che serve ai cittadini, fa sì che i partiti man mano cerchino di avvicinarsi verso questo cambio, e quindi delle cose automaticamente arrivano e vengono. Noi li costringiamo a essere in Parlamento, a lavorare forte nelle commissioni, a parlare. Cioè siete un po' la coscienza critica degli altri, e poi e influenzate, lei dice, indirettamente l'agenda. Questo è possibile, sicuramente molti dei vostri temi sono diventati, come quello del finanziamento pubblico dei partiti, anche del PD, che non ce l'aveva. Però intanto l'hanno rimandato il finanziamento pubblico, e quindi per ora avete influenzato poco. Sì. Cioè, rimandano tutto perché non riescono realmente a decidere. Addirittura hanno votato contro la nostra mozione di luglio, che dicevamo semplicemente sospendiamo la rata che vi spetta, perché noi abbiamo rinunciato a tutti i rimborsi elettorali, 42 milioni di euro, alla rata che vi spetta di 91 milioni di euro a luglio, perché il Paese soffre, non prendetevi questi 91 milioni di euro. Senta Fico, questo lo sapevamo, il tema, diciamo, del giorno dal punto di vista politico è anche un po' questa dichiarazione di Berlusconi sull'IMU, che ha detto è alla base delle larghe intese, se non viene cancellata l'IMU, perché ieri Sacconi ha detto che non sarà del tutto cancellata, non ci sono più le larghe intese. Ci vuole ricordare qual è la vostra posizione sull'IMU? Ha ragione Berlusconi? Su questo siete d'accordo con lui? Noi, più che d'accordo con Berlusconi, noi pensiamo che la casa appunto sia un diritto, e siccome molte case sono con il mutuo anche, perché dobbiamo pagare una tassa su una casa che magari ancora non è nostra? Cioè siamo veramente a volte nell'impensabile, e quindi noi siamo per l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, però noi lo siamo proprio per un discorso di tutela delle persone, le persone che in questo momento stanno soffrendo, del fatto che ci sono dei mutui e si paga con fatica il mutuo, lo siamo con un principio secondo me molto saldo. Invece io vedo che Silvio Berlusconi, il PDL, lo usano come una materia sempre o elettorale. Vabbè, ma dicono le stesse cose anche loro, dicono che la gente non ce la fa, sì, però e che quindi l'IMU è una tassa in più, anche... il concetto è lo stesso, Fico, non è? Sì, mi sembra molto diverso. Dobbiamo comprendere anche la cioè non è che se lo dice Berlusconi è cattivo e se lo dite voi è buono, questo mi sembra un po' ingenuo. No, però c'è una cosa importante secondo me da dire su questo e su tutto, che va anche compresa la credibilità degli interlocutori di oggi. Io non mi posso dimenticare che Berlusconi ha mandato una lettera da far firmare per avere la restituzione dell'IMU. Cioè questa è pura propaganda, chi fa atti di questo tipo qua è responsabile, quindi anche se si parla di sofferenza, poi quella sofferenza in effetti la va a prendere in giro, e quindi noi a questo non ci stiamo. Vabbè, quindi era campagna elettorale quello, e no, adesso siamo niente, in un'altra fase, però non cambia la linea. Non è un alibi di niente, noi tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale lo rispettiamo oggi, assolutamente, è totalmente coincidente quello che eravamo prima con quello che siamo oggi, e quindi su questo io non faccio sconti a nessuno. Va bene, dobbiamo fermarci qua. Grazie per essere stato con noi. Buone vacanze. Vi ringrazio dell'invito. Buone vacanze, veramente. Buone vacanze a Roberto Fico, parlamentare del Movimento 5 Stelle, è stato con noi. Magari poi, chissà, nelle prossime settimane, perché loro vanno in vacanza, però non è che la politica si ferma, lo risentiremo. Chissà. 800 24 00 24. Carlo Gabardini, il tuo regolo di ingaggio non ti consente, esatto, di dialogare con gli ospiti. Che è molto difficile, tra l'altro. Adesso che mi avete anche vietato di fumare la sigaretta elettronica qui dentro, non puoi nello fare studio, nulla. È un disastro. Devi fare delle cose utili, produttive. Ma non garantisco di riuscire a rimanere due ore e mezza qui dentro senza anche poter fumare, diciamo, del vapore, ecco. Allora, facciamo la borsa e torniamo, giusto, borsa. E poi vediamo anche di commentare con te l'intervista. Volevi chiedere qualcosa a Fico? No, ero curioso, sì, di una questione, nel senso che sono d'accordo che il Movimento 5 Stelle in realtà abbia anche un ruolo, diciamo, di smascherare e influenzare l'agenda, però questo ce l'ha da un sacco di anni. Invece adesso che è dentro nel Parlamento, direi che il ruolo del Movimento 5 Stelle dovrebbe essere un altro, nel senso che adesso sono dentro, sono in tanti anche dentro, quindi dovrebbero trovare un modo invece per influenzare, nel senso di prendere le decisioni, non di influenzare. Influenzare lo si fa da fuori, andava benissimo prima allora con la rete, con Facebook e altre cose. Good news e borsa, torniamo tra un attimo. And now the good news. Kadim è un ragazzo senegalese, venditore ambulante senza permesso di soggiorno, che il 30 marzo ha sventato una rapina in una focacceria di Bari, dimostrando coraggio e senso del dovere. Da allora i cittadini baresi hanno lanciato una petizione per fargli ottenere il permesso di soggiorno per motivi civili. Come si dice, fratelli d'Italia. Si può fare l'attualità anche d'estate. 800 24 00 24, cominciamo a sentire gli interventi degli ascoltatori che ci chiamano al numero verde. Abbiamo Ruggero da Barletta. Buonasera, Ruggero. Buonasera, buonasera. Buonasera. Io sono un elettore del PDL di Berlusconi, ma da quando lui è stato condannato mi sono detto che non posso più votare un condannato. Quindi mi sono documentato sia sul PD che sul Se può abbassare la radio, perché così la sentiamo male, anzi la spenga proprio, la abbassi, faccia qualcosa, Ruggero, se no non... Sia sul PD che sul 5 Stelle. E devo dire che il 5 Stelle, quindi Beppe Grillo, l'aveva già detto nei suoi comizi che ha fatto in giro per l'Italia, cioè aveva denunciato le pensioni d'oro. Oggi, sia oggi che ieri, sono uscite sui giornali di queste pensioni d'oro, ma che Beppe Grillo aveva già detto. Sinceramente l'ho rivalutato Beppe Grillo molto, anche perché questi 91.000 euro per le pensioni si potrebbe anche investirli sul reddito di cittadinanza che guardi come, fare, su come investire i 91.000 euro tutti potrebbero avere delle idee sicuramente, ma soprattutto chi li prende, perché è l'unico che può decidere come investirli. No, i 91.000 euro il problema non sono è toglierglieli, toglierglieli perché sai che c'è la questione dei diritti acquisiti, è molto complesso e nessuno fino ad ora ci si è mai provato a fare qualcosa. Sì, ma visto che siamo in un momento di crisi, sì, invece di andare ad abbattere il tasso sull'IMU, anche l'IMU non è mai cioè non è mica detto, invece di mettere sull'IMU oppure non aumentare l'IVA si fa un prelievo forzoso, perché prima o poi secondo me lo faranno. Beh, ma lei ha telefonato che era del PDL, ma adesso è già per un esproprio proletario, nel senso sì, perché ormai non posso più, ma giusto, ormai ha cambiato opinione, va bene. No, ma ho visto che in effetti l'aveva detto Beppe Grillo, perché io mi sono visto un comizio, l'aveva già detto lui. Sì. Infatti poi oggi è uscito anche sui giornali, sulle televisioni, del reddito di queste 91.000 euro delle pensioni, ecco. Quindi io ho fatto uno più uno e grazie. Si potrebbe fare questo reddito di cittadinanza. Se chiama qualcuno che prende 91.000 euro di pensione, diciamo che la mettiamo in contatto, così vi mettete d'accordo su come investirli. Guarda, se chiama qualcuno che prende 90.000 euro di pensione, uno di questi super pensionati che noi abbiamo cercato ma che non vogliono naturalmente parlare, vorrei sentirlo dire che è un diritto acquisito e non si può toccare in questa fase. Vorrei proprio sentirglielo dire. Perché ricordiamo che parliamo di 91.000 euro al mese. Si dice poi sono lordi, ho capito, però non è che fatto in netto sia poca roba. Mi piacerebbe proprio che chiamasse qualcuno di questi, però... Anche se io devo dire che sono in parte d'accordo con quello che diceva ieri Mughini, che in realtà sono diritti acquisiti, va bene, però è in base a quello che uno ha pagato, questo è vero. Non è no, ma il vecchio sistema, la pensione non la prendevi in base a quanto avevi pagato, ma a quanto prendevi di stipendio, è lì il problema. Che è quanto paghi, perché quanto prendi di stipendio, su quello si basa quanto tu paghi di tasse, quindi è quello che tu paghi di pensione. In realtà è in parte legato a quello, ovviamente. Poi dopo che il meccanismo non si regga, siamo d'accordo, non si regga più perlomeno. Non sono d'accordo su questo, però non dobbiamo appianare adesso la questione tra me e te. No, assolutamente. Abbiamo chiarito le posizioni agli ascoltatori. Juan, che ci chiama da Modena. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera. Io vorrei dire tre cose. La prima è che sono riusciti a fare in piangere Cruciani, che è accusato di essere scurrile nel parlare, ma almeno quando interloquisce con chi chiama è capace di fare l'uomo di sinistra quando parla di destra e fare l'uomo di destra quando uno parla di sinistra. Invece voi due vi trovo eccessivamente schierati a favore della sinistra. La seconda cosa riguarda il fatto che... Ma io ho appena difeso le pensioni, le volevo dire. Le pensioni d'oro, esatto. Diceso, non so cosa vuol dire questo, Gabardice. Questo sta dicendo che siamo troppo schierati di sinistra, mi sembra, insomma. Posso continuare? Certo. Grazie. La seconda cosa, ho capito perché non si voleva togliere l'immunità parlamentare, perché se è vero che il 95% di quelli che per colpa di mani pulite sono stati cacciati, poi alla fine il 95% erano innocenti. Se un magistrato può mettere in galera qualcuno perché poteva non sapere, ho capito come mai c'è questa immunità parlamentare. La terza è come mai, se legata alla seconda, vediamo che qualcuno che non paga le tasse viene multato. Personaggi come Pavarotti, come Valentino Rossi, come De Benedetti, e invece altri finiscono in galera. Grazie a tutti qua. Angelo dalla provincia di Bari, buonasera. Buonasera, la sento poco, ma cerco di sentire meglio. L'importante è che noi sentiamo sì, avevo lei. Avevo chiesto di parlare in merito al Ministero dell'Immigrazione, Ius Soli, Cienge. Posso? Prego, vada. Sì, allora, niente, posto che sono distante miliardi di anni luce dagli ispiratori della Lega, di tutte quelle obbrobriose insulti ed esternazioni riguardo di questa persona che ritengo veramente squisita, la dottoressa Chienge, pur tuttavia una riflessione va fatta sia in merito al Ministero che allo Ius Soli. Mi spiego, il Ministero è vero, ha ragione chi ha detto che è completamente inutile, anche addirittura dannoso. Nessuno in Italia si è mai sognato di creare un Ministero per l'integrazione dell'obbligo scolastico che è ampiamente valso tuttora nel 2013, piuttosto che per l'evasione fiscale oppure per l'evasione di un altro obbligo contro la prostituzione. Sono attività che rientrano in istituzioni ministeriali già esistenti e tutelate, altrimenti occorrerebbe dare luogo all'istituzione di una miriade di ministeri per ciascuna sua esigenza. Questo come è sensato, anche quello che lei dice è sensato. Diciamo degli extracomunitari. Sì, Angelo, quello che lei dice è sensato, tant'è vero che fino ad oggi non c'era quel ministero lì. Perché è no, sempre... l'ha fatto Monti in realtà, è il ministero dell'integrazione. Della coesione territoriale, sì. Vabbè, ed comunque è adesso è cambiata interpretazione ed è così. Quindi lei contesta questa cosa, pur non avendocela con la Chienge. Questo mi sembra un discorso che ci può stare, insomma. Anch'io non ho chiarissimo cosa fa il ministero dell'integrazione, eh. Anche dopo l'intervista di Cécile Chienge, devo dire la verità, che ha risposto a Salvini ieri sera al TG1 che vuole abolirlo il ministero. Non è scontato. Comunque, Angelo, voleva continuare? Una persona onestissima dovrebbe dichiarare insieme alla Boldrini quanto lo Ius Soli, è una legge, costa, come prevede la Costituzione, qual è la sua copertura. Mi spiego, se lo Ius Soli significa 100.000 pasti più in Italia, piuttosto che 1 milione di ricongiungimenti ogni 5 anni, deve essere spiegato agli italiani, e nella proposta di legge, quanto costano 100.000 pasti l'anno, visto che stanno chiudendo degli ospedali, Monti ce lo ricorda, quanto costano 1 milione di ricongiungimenti ogni 5 anni, va detto, e va detto agli italiani, pagherete tanto di tasse. Va bene, grazie Angelo. Non lo so però se c'è un collegamento tra lo Ius Soli e i pasti, come dice lei, perché non lo so. Cioè si parla di persone che stanno già qua e che quindi se costano, costano già, e si tratta di dare o non dare la cittadinanza. Comunque è legittimo anche la domanda che fa lei. Abbiamo già la pausa per il traffico, ce l'abbiamo già pronta? Sì, facciamo una buona notizia, il traffico, e poi 800 24 00 24, poi andremo anche a Rimini. And now the good news. A Genova il comune dichiara guerra alle slot machine che stanno dilagando sempre di più. Nel capoluogo ligure è stato approvato un regolamento che impone la chiusura delle macchinette mangiasoldi alle 9 di sera. Anche la regione Liguria ha messo dei limiti all'acquisto di nuove slot machine. Genova scommette, ma sulla salute. Si può fare l'attualità anche d'estate. Avevo detto che andavamo a Rimini, infatti andiamo sul lungomare di Rimini, dove da qualche giorno sono operative una sorta di ronde, non so se chiamarle così, dove ci sono dei cittadini arruolati per fare una serie di controlli. Una cosa che ha fatto discutere, salutiamo l'assessore Jamil Sadegolvad. Buonasera. Sì, buonasera a tutti. Alla sicurezza delle attività economiche del comune di Rimini. Credo che lei sia, diciamo, tra gli autori di questa iniziativa. Sa, quando si sente parlare di ronde, titoli sui giornali, con la Lega che va dietro dicendo: ah, ma come adesso il Partito Democratico fa quello che facevamo noi e prima ci criticava, si rizzano subito i capelli in testa. Intanto, come funziona questa iniziativa che avete preso? Da quanti giorni è operativa, assessore? Sì, in realtà l'iniziativa parte proprio in questi giorni, è un'iniziativa che è stata concordata con la prefettura di Rimini, che anzi si è fatta capofila della sottoscrizione di un protocollo con il comune di Rimini e tutte le associazioni di categoria del territorio. Certamente il termine ronde è improprio, perché è un termine che non appartiene alla nostra cultura, non appartiene alla nostra naturale vocazione all'accoglienza e alla solidarietà, che in Rimini ha sicuramente un luogo naturale, ecco, nell'Emilia Romagna e a Rimini in particolare. Quindi il termine ronde è assolutamente improprio. Però si tratta comunque di ex agenti, per esempio delle forze dell'ordine in pensione arruolati per fare dei controlli lungo il litorale. Sì, ecco, noi chiaramente abbiamo dovuto far fronte a quello che è un fenomeno ormai che si è esteso a tutte le coste italiane, anche alle principali città, ecco, sì, quello dell'abusivismo. Quello dell'abusivismo commerciale. Dei venditori ambulanti. Chiaramente anche Rimini, in particolar modo in un tratto del suo arenile, perché Rimini ha una costa di 15 chilometri, in particolar modo nella zona sud, che sono circa 2 chilometri, c'è un fenomeno sicuramente consistente di venditori abusivi che creano un loro piccolo mercatino sulla redine. Quindi noi abbiamo messo in campo tutta una serie di azioni come amministrazione comunale, con la polizia municipale, le forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza, polizia, sì, di Stato, tutte sono impegnate su questo fronte, però chiaramente le emergenze sono tante, le questioni di cui far fronte sono tante, e si è pensato di arrivare ad un approccio di sicurezza integrata, complementare. Dove, cioè, traduciamo, se non faccia troppo il politico, sennò non capiamo. Un approccio di sicurezza integrata vuol dire che prendete, per esempio, in questo caso la gente che è in pensione, gli agenti in pensione, e non so, gli mettete una pettorina, come funziona? In parole semplicissime, sono state coinvolti gli istituti di vigilanza, quindi i vigilantes normalmente conosciuti che si vedono in tutte le città, sono state coinvolte anche delle associazioni che sono quelle dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, l'Associazione Nazionale dei Finanzieri, sì, della Polizia di Stato, cioè effettivamente sono associazioni composte da ex finanzieri, ex poliziotti, ex carabinieri in pensione. Quindi c'è un coinvolgimento sia dell'associazionismo che degli istituti di vigilanza. Ovviamente le forze non arretrano di un millimetro, continuano il loro compito. Questi signori, i vigilantes, i membri delle associazioni, di fatto hanno un compito di di sorvegliare l'Arenile. Ecco, ma è questo il punto, no? Qual è il compito? A parte i complimenti, perché secondo me l'idea di coinvolgere gli ex agenti in pensione, credo non pagandoli, no? Cioè, ci sarà un'assicurazione che gli fate, ma non credo che ci sia stipendio, non so, ci sarà un rimborso spese, insomma è una forma di risparmio anche per il comune. No, sicuramente è, come dire, l'approccio sussidiario. Ma ci sono delle convenzioni già in atto, ad esempio come Protezione Civile del Comune di Rimini con alcune associazioni, per cui vengono coinvolte queste persone, certamente ci sono i rimborsi spese, le convenzioni di fatto sono queste, ma sono persone che chiaramente hanno ancora energie da dare, tanto da fare, quindi... Questa secondo me è una cosa positiva, cioè una forma di risparmio per il comune che di questi tempi non fa mai male, si rimettono in gioco delle persone che magari hanno ancora qualcosa da dare, da fare, in controlli non di primissimo piano, però il punto è proprio questo, che tipo di controlli fanno? Perché da quello che si leggeva sugli articoli di giornale sembrava che fossero concentrati soprattutto sulla questione dell'abusivismo, cioè sembravano quasi delle guardie giurate a difesa dei commercianti. Di fatto il loro ruolo è quello di presidiare l'Arenile, cioè quando arrivano dei venditori abusivi non fanno altro che segnalare alle forze dell'ordine che appunto ci sono queste presenze. Quindi solo sulla questione degli abusivi, cioè se c'è, per dire, magari la sera, tardi, gente che ha alzato un po' il gomito, può capitare, una rissa o qualcosa del genere, su questo loro non intervengono? Assolutamente no. L'accordo riguarda la prevenzione del fenomeno dell'abusivismo commerciale, segnatamente sull'Arenile, quindi parliamo della spiaggia, parliamo degli abusivi che cercano di scendere in spiaggia per fare il loro commercio abusivo. Quindi diciamo è una cosa che è sollecitata dai commercianti, quelli diciamo titolari dei negozi, penso, perché non credo che sia un'emergenza sentita dalla gente, quella degli abusivi. No, è sicuramente denunciata dai bagnanti. Ma spesso accade questo, quando ci sono gli interventi contro gli abusivi, anche gli stessi turisti spesso si dividono in due fazioni, c'è chi difende l'abusivo e c'è chi invece plaude le forze dell'ordine. In realtà è un fenomeno che diciamo crea problemi non solo per la concorrenza leale verso i commercianti, ma anche agli stessi operatori balneari, perché c'è un'occupazione di tratti della spiaggia che crea problemi per gli stessi salvataggi, perché comunque ci sono persone, ci sono assembramenti di questi venditori abusivi, quindi chiaramente è un problema che appunto con questo approccio pubblico-privato cerchiamo di risolvere e di contrastare. Ma la sua giunta si può definire renziana? Il sindaco di Rimini viene definito renziano sui giornali? Renziano? No. Il nostro sindaco ha a cuore la sua città ed è impegnato nei problemi amministrativi della sua città, dopodiché le etichette le lasciamo ad altri. Noi sicuramente cerchiamo di fare il nostro meglio per Rimini. Però non è un'iniziativa che si colloca fuori dal perimetro classico delle cose che fa il PD normalmente, sembra più una cosa che potrebbe fare la Lega o no? Dal suo punto di vista. Io credo che il Partito Democratico debba dare delle risposte come le ha sempre date in termini di legalità. Noi siamo sempre stati molto attenti alle persone che hanno bisogno, anche gli extracomunitari che sono in difficoltà, però c'è un principio di legalità che va fatto rispettare e quindi in questo caso il commercio abusivo non può essere accettato e noi lo contrastiamo a tutela dei nostri operatori, ma anche per avere, come dire, una spiaggia più bella per i nostri turisti, tanti turisti che vengono a Rimini ogni anno, abbiamo 8 milioni di presenze turistiche all'anno, quindi crediamo di dover lavorare per fare la nostra città. C'è però qualcuno che ci scrive all'SMS 349-238-6666 che in realtà i costi di questa operazione sono alti, che li pagate 120 euro al giorno queste persone, è vero? No, guardi, non ricade un solo euro sul comune di Rimini. L'operazione viene pagata dalla locale Camera di Commercio e contribuiscono anche le associazioni di categoria. Quindi è un'iniziativa che viene finanziata dalla parte 50.000 euro c'era scritto sul giornale, questo è il costo dell'operazione, finanziato però non da voi. Chiedo scusa, ma sento male. Sui giornali c'era scritto che il costo di questa operazione è 50.000 euro. Sì, circa. Ce lo conferma? Confermo, sì. Che però non mettete voi in nessun modo, li mette tutti la Camera di Commercio? Camera di Commercio e associazioni di categoria. e associazioni di categoria che tutte hanno sottoscritto questo protocollo, sia nelle componenti appunto dell'artigianato, del commercio, ma anche gli operatori balneari. È una, quindi un'operazione che non ha costi per il pubblico, semplicemente si va ad affiancare agli sforzi che forse dell'ordine, la polizia municipale del comune di Rimini fa nei termini di contrasto all'abusivismo. E come saranno riconoscibili questi soggetti, giusto per dirlo, magari ci sono qualcuno degli 8 milioni che vanno in Riviera Romagnola e sono interessati a capirlo, come si distinguono? Come si distinguono questi operatori? Cioè avranno una pettorina, hanno qualcosa? Sì, hanno le loro, ad esempio parliamo dell'associazione Carabinieri o dell'associazione dei finanzieri in pensione, loro hanno già una loro divisa, quindi saranno ben riconoscibili, così come i membri degli istituti di vigilanza hanno una loro divisa. Ci tengo a dire, gli istituti di vigilanza mettono personale che non è armato, è semplicemente una funzione di presidio del territorio. Quando c'è un venditore abusivo che cerca di andare in spiaggia, vengono avvertite le forze dell'ordine. Va bene, grazie. Allora all'assessore alla sicurezza di Rimini, buona serata, grazie per essere stato con noi. Grazie, buona serata a voi. Quindi, cari amici venditori ambulanti, occhio dalle parti di Rimini perché vi pizzicano. Non ho capito, anche perché non ho capito le regole di ingaggio, se potevo fare una domanda, ma quindi cioè, chi vende il cocco bello sulla spiaggia di Rimini deve fare lo scontrino, è questa la questione, eh? Questa è una bella domanda da fargli, perché l'attenzione è sui venditori di prodotti commerciali abusivi, no? Quelli che, cioè, che vendono il cocco bello, le cose contraffatte, quindi le borsette, cose contraffatte, quello sì. Che d'altra parte, essendo una guardia, anche il cocco, una guardia finanziata dalla Camera di Commercio, l'interesse è su quello. Sì, ma anche il cocco, perché poi c'è il chiosco che vende il cocco e poi magari il cocco contraffatto, è un ananas vestito da cocco, magari, non si sa mai. L'assessore ha detto venditori abusivi. Abusivi, di tutto. Tutti, mi sa. Tutti, sì, assolutamente. Allora, c'è molta coda in spiaggia a Rimini per la vendita del cocco, perché bisogna fare lo scontrino. Questa non l'ho capita. Niente. Vediamo se è arrivata agli ascoltatori. Vanni da Brescia, buonasera. Buonasera. Io chiamavo perché, visto che in questi giorni si parla molto del processo fatto da Berlusconi, volevo fare un intervento a suo favore. Non so se sono uno dei pochi. Mi scuso, sono la voce che trema, ma sono emozionato. Comunque, non si preoccupi. Quelli, più che altro il tempo sta scadendo perché abbiamo il giornale radio, quindi come facciamo? Vuole bere una birra e ci richiama dopo. Forse è meglio. Facciamo l'aperitivo e tanto noi abbiamo il giornale radio, torniamo tra alcuni minuti dopo le notizie del GR. Grazie, restate tutti in attesa, cari ascoltatori. Ce ne sono già molti caricati, pronti. Ottimo. 800 24 00 24 giornale radio, a tra pochissimo. And now the good news. Il cibo dei mercati che a fine giornata è destinato alla discarica a Bolzano viene raccolto e cucinato per dare vita alle Voku Poku, delle cene conviviali aperte a tutti, preparate da volontari. Il menù è rigorosamente vegetariano e lo spreco è ridotto a zero, come la fame. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo in diretta. 800 24 00 24 il numero verde per intervenire fino alle 20:30. C'è ancora molto molto spazio per i vostri interventi. Cominciamo, Gabardini qua in studio. Buonasera. Con noi di nuovo dopo questa pausa filmica varese. Sì, che però... scusami, pausa filmica, pensavo intendessi la pausa che abbiamo appena fatto, che sono andato a fumare, scusami. Quella è un'altra cosa. TG3. E di nuovo scontro sull'IMU dopo le proposte di Sacco Manni. Berlusconi, la tassa non si deve più pagare. Il governo Letta si fonda su questo accordo. Il PD replica, ragiona come zio Paperone. L'abolizione totale è iniqua. Se vuole la crisi sul fisco si assume una responsabilità gravissima. Letta, a fine mese troveremo la soluzione sull'IMU. Il governo è più saldo di quanto si creda. La ripresa c'è, ma in autunno clima sociale difficile. La direzione del PD fissa la data dell'assemblea a settembre, giallo invece sulle primarie, i renziani, deve essere il 24 novembre. Al centro di accoglienza di Lampedusa sono ancora 600 i migranti arrivati negli ultimi giorni. Al TG3 il racconto di Mohammed, ho gettato in mare il corpo del mio compagno. In migliaia in corteo a Niscemi contro la base americana di sistemi satellitari. Alcuni attivisti non muossaliti sulle antenne già installate. Brucia da due giorni il centro della Sardegna, 8.000 ettari di bosco in fumo. Incendi anche sui monti del Friuli, polemiche sui soccorsi. Noi lavoriamo determinatissimi, aggiungo anche che abbiamo fissato il 23 di agosto la prossima riunione del Consiglio dei Ministri. Noi due, oltre altri ministri, saremo qui in sede la prossima settimana, alternandoci. Quindi per quanto ci riguarda il governo non va in vacanza. Guardo una cartolina, chiudo gli occhi e quella spiaggia è più vicina. Prendo il mio surf sull'onda cerebrale, cavalco la mia anima come se fosse il mare. In questi primi sei mesi il Parlamento non ha approvato nessuna legge di iniziativa parlamentare. E questo è una, e questa è una vergogna e una violazione della Costituzione italiana. Per qualcuno la più bella del mondo. Buone vacanze. Onorevole Di Battista, lei sa che c'è l'impegno mio e di questa Assemblea per riformare il regolamento. La Giunta per il regolamento sta lavorando su questo e lei sa anche che le iniziative popolari, le leggi di iniziative popolari sono all'attenzione della Giunta e del Comitato, così come sono all'attenzione tutti gli altri provvedimenti che porteranno alla centralità del Parlamento. Oh, il tema della copertina di oggi è le vacanze, perché Noi non le facciamo, dice. Perché noi non le facciamo, no, perché molti vanno in vacanza, perché Letta ieri ha detto non andiamo in vacanza, io e Alfano rimaniamo a Palazzo Chigi. È bella questa immagine di lui e Alfano che si alternano a Palazzo Chigi da soli con le chiavi, con le chiavi. Si passano le chiavi, dico io tardo mezz'ora, apri tu, così esatto, faranno. Esatto, e ieri avevamo scherzato sul fatto che proprio nel giorno in cui Renzi è tornato con forza, diciamo così, a ipotizzare un non si sa, insomma, una fine del governo Letta un pochino più precoce, queste larghe intese che vanno e vengono, allora abbiamo pensato, abbiamo visto, immaginato Letta barricata a Palazzo Chigi più che altro per la paura che arrivi Renzi, certo, o che si vada ad elezioni. Abbia fatto un doppione delle chiavi Renzi. Ma poi c'è anche il tema delle vacanze forzate del Parlamento, sottolineato dal deputato 5 Stelle Di Battista, che dice in sei mesi neanche una legge di iniziativa parlamentare è stata approvata dal Parlamento. Il Parlamento che ratifica le iniziative, evidentemente, del governo. Oggi ci sono anche le paroline dell'onorevole Razzi, Antonio Razzi, di ritorno, gli ascoltatori di Radio 24 e della Zanzara lo conoscono bene perché è ospite spesso, e di ritorno dal viaggio in Corea del Nord, viaggio pare c'era anche l'ex ministro Romani, sì, doveva esserci anche uno del PD, perché però non c'era per motivi, credo, di salute, non so, Farina non è andato, una missione, apprendiamo, votata dal Parlamento, cioè voluta dal Parlamento italiano, ci può anche stare in Corea del Nord, anche se non è un paese democratico, molto democratico, però insomma si va anche in Cina, si può andare anche in Corea del Nord, di ritorno però si è lasciato andare in commenti, non lo so, svizzeri, così, direi, svizzeri sulla Corea, sentiamo. Apprezzo che c'è una somiglianza molto alla Svizzera, dove io ho vissuto per oltre 40 anni. E le persone sono precise per quando si danno gli appuntamenti e poi c'è una pulizia per le strade molto molto pulita, e questa è una cosa che mi ricorda la mia Svizzera. Cavalco la mia anima come se fosse il mare, niente più aerei né comitive, da quest'anno vacanze alternative. Ma io non credo che non ci sia i diritti umani, io almeno ho visto una che si può tranquillamente uscire, andare dove uno vuole, apprezzare. Poi la città di Pyongyang veramente ne merita, una città di 3 milioni e 3, tutto nuovo, palazzi nuovi, alberghi che stanno costruendo nuovo, appunto perché loro aspettano che arrivano i turisti. Anche quest'anno no. la Corea del Nord come la Svizzera. Sì, direi che le persone sono precise quando si danno gli appuntamenti. Is the new, i treni arrivavano in orario, così per dire. Lui ci ha vissuto 40 anni in Svizzera e la Svizzera probabilmente la conosce. Non so quanto in quei pochi giorni abbia capito della Corea, Razzi, della Corea del Nord, perché insomma dire che cos'è che ha detto poi? Non so, credo, ha anche dimenticato alcuni congiuntivi, direi, qua in Italia prima di ma prima Romani, dell'intervista. Romani, che era con lui, l'ha vista un po' diversamente, che è stato preso anche mentre applaudiva. Dice: però non applaudivo alla parata, applaudivo non so che cosa. E dice: non si può parlare bene d'un regime, siamo andati qua, però ora non esageriamo. Questo Romano, invece Razzi è proprio tutto contento. Sentiamo se c'è un altro pezzo. Guarda, uno spettacolo che io consiglio a tutti di andarla a vedere, perché è una cosa unica. Anche sotto un caldo che doveva essere circa i 40 gradi, una cosa magnifica, uno spettacolo magnifico, una coreografia magnifica che alla fine mi sono anche divertito a guardarlo. E queste erano le paroline di Razzi. Poi ci sono anche delle dichiarazioni di Quagliariello, il ministro per le riforme, sul tema sempre attuale ma sempre rimandato della legge elettorale. Adesso non so esattamente in quale frangente Quagliariello viene, diciamo, colto a dire che tutto sommato il Porcellum non va così male. Sentiamo. Questa legge non è, come qualcuno dice, la peggiore legge del mondo, ma è una legge che è stata fatta in un altro momento storico, quando c'erano solo due grandi schieramenti e quindi il premio di maggioranza era molto piccolo. Poi non ci si capisce più niente, sembra un giorno sembra che senza legge elettorale diversa non si possa stare, un giorno, dice Quagliariello, invece si può anche dire è solo una questione di momento storico. Sì, ma è stata definita una porcata da colui che l'ha fatta. Insomma, sì. Poi al di là del momento storico, ricordiamo che anche quando c'erano due blocchi, il centro-sinistra guidato da Prodi e il centro-destra guidato da Berlusconi, ricordiamoci nel 2006 le elezioni vinte per 4 voti da Prodi e che si creò una situazione di quasi ingovernabilità, quindi non funziona proprio quella legge lì, almeno secondo me, ecco. Direi che stanno iniziando a prepararci che forse si voterà ancora con questa legge, solo per i prossimi 625 anni. Ce l'abbiamo Quagliariello sul treno a vapore? Quella la cosa lì. Sì, perché lui qualche giorno fa era stato registrato, credo da un grillino, durante una seduta della Commissione Affari Costituzionali, mentre si preparava questo dibattito estenuante sulle riforme istituzionali, è un discorso lunghissimo in cui parlava dell'importanza dei mezzi di locomozione, l'impatto sulla democrazia, il treno a vapore e la democrazia, un argomento che non sembrava proprio centralissimo rispetto al discorso, ma visto che la legge elettorale tanto si rimanda sempre, tanto vale parlare del treno a vapore. Sentiamolo Quagliariello. L'aperta della macchina a vapore, della locomotiva e del treno ha sulla democrazia parlamentare, perché senza il treno non ci sarebbero stati i comizi fuori dalla propria provincia, non ci sarebbe stata la nazionalizzazione, tra virgolette, della proposta politica, e dunque è evidente che la democrazia cambia anche tenendo conto dei mezzi di trasporto. Vabbè, ma non ce l'abbiamo tanto con Quagliariello quanto con il teatrino un po' di questa cosa della legge elettorale. Oh, adesso è arrivato il momento del nostro punto di vista strambo. Stasera ritroviamo i ragazzi della Radio Immaginaria e stasera sono Giulia e Amalia. Buonasera. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Dunque, Giulia, che sappiamo essere in vacanza, credo, in Francia, ancora? Sono in vacanza in Francia, tutto bene. Ecco, questo ci rincuora. E invece Amalia dove la troviamo? Allora, io sono in Puglia a godermi un po' di mare. Anche tu, tutti in vacanza, la facciaccia nostra, cioè, gli unici che, e fate radio, gli unici che non fanno vacanza siamo io e te. Maurizio ed io. Allora, Giulia 17 anni, se ricordo bene? Sì, certo. Amalia invece quanti anni hai? Quasi 16. Quasi 16, perché la Radio Immaginaria che nasce, Giulia, ricordaci dove e perché? Allora, Radio Immaginaria nasce a Castel Guelfo di Bologna, sì, diciamo, e all'incirca 3 anni fa, sì, e è nata un po' per caso, diciamo, perché è nata un po' da un progetto scolastico che si chiamava Radio Immaginaria, sì, e che alcuni di noi hanno fatto l'ultimo anno delle medie. E per per non perderci di vista durante l'estate, ci siamo trovati e abbiamo avuto la brillantissima idea di creare una radio. Dove parlano radio solo... Cosa? Dove parlano solo bambini, solo adolescenti tra 11 e 17 anni. Ecco, e questo sì, ci premeva ricordare. Quali sono gli argomenti su cui vi siete intrattenuti? Io ho sentito qualcosa dell'ultima, non so se era l'ultima puntata, eravate a Riccione in trasferta per preparare il camp estivo? Esatto. Sì, eravamo là, cioè, io direttamente non c'ero, però naturalmente sì, era di immaginare, si muove sempre. Eravamo là per preparare un po', per ritrovarsi un po' nel clima di Riccione, come abbiamo fatto anche l'anno scorso per il nostro radiocampo. E niente, i ragazzi si sono trovati lì e hanno chiamato a sorpresa gli inviati, persone inviati da tutta Italia, che ormai abbiamo tutti gli inviati immaginari, e per sapere un po' cosa facevano e anche per comunque ricordare del nostro radiocampo, che ci sarà dal 24 al 28 agosto a Riccione. Sì. E saranno 4 giorni dedicati a musica, radio, interviste, ospiti, anche ci saranno anche degli ospiti, degli attori che verranno per noi, e faremo anche un po' di training per diventare sempre più bravi. Ma adesso non siete in onda? In questo momento nessuno di voi è in onda, o sì? O siete in vacanza tutti? No, in questo momento no. No, in questo momento no, perché oggi è venerdì, noi andiamo in onda a Castel Guelfo il lunedì sera, e mentre Medicina e San Giovanni Persiceto vanno in onda il mercoledì e il martedì. Quali sono i prossimi temi su cui state lavorando, le prossime interviste che volete fare? Cioè, vogliamo capire qual è un po' il vostro punto di vista sul mondo. Non so se vuole rispondere Amalia, che forse sta raccogliendo spunti in Puglia. Esatto, no, diciamo che in questo periodo Radio Immaginaria si è concentrata sul lavoro, cioè, che è un tema per noi giovani molto importante e anche un po' spinoso in questo periodo. Stiamo cercando di costruire questo futuro che ci siamo immaginati e che ci può piacere, perché la radio sta cercando i mezzi per poterci dare una vera e propria piattaforma lavorativa, cioè il tempo e l'energia che noi utilizziamo in Radio Immaginaria ci piacerebbe che un giorno diventasse un vero e proprio lavoro. E comunque radio, insomma, oltre ad insegnarci ad esprimerci correttamente, il che può essere davvero molto utile durante le interrogazioni, ci mostra anche comunque un mondo lavorativo, che è quello dello spettacolo, che non si è abituati a vedere dall'interno. E quindi, insomma, ci stiamo concentrando un po' su questo. Benissimo, noi io e Gabardini avevamo una cosa da chiedervi, perché oggi avrete letto i giornali, c'è stata questa vicenda in Inghilterra di questa ragazza che si è suicidata dopo aver interagito su alcuni social network. Oggi il premier inglese Cameron ha detto che vuol mettere al bando quei social network tipo Ask, dove nell'anonimato ci si scambiano messaggi, perché sono pericolosi per il bullismo. Voi ci andate? Li utilizzate, per esempio, a Giulia, Amalia? Allora, no, io non li ho mai utilizzati. Questa è Amalia. Preferisco utilizzare Facebook, WhatsApp anche, ma quel tipo di social network non mi piacciono, perché non hanno... già con il social network non sono molto favorevole, perché preferisco sempre l'approccio personale. Però, insomma, quelli anonimi non mi piacciono, non vedo... Un modo bello per comunicare. Sì, ma è anonimo solo per scelta, se si vuole, è tanto quanto Twitter, anche sì, Twitter, certo, se si vuole, certo, anonimo, sì, basta sì, scegliersi un nick che non sia il proprio nome e cognome. Sì, hai ragione, giusto, però insomma, meglio la sincerità. E invece Amalia? Allora, io ho ben presente Ask, perché molti miei amici ce l'hanno e ci vanno, anch'io temo molto il cyberbullismo, che è un fenomeno che purtroppo, cioè, è molto grave, anche quando non si è ben informati. Magari ci sono dei ragazzi che si sono iscritti in questi siti fin 11-12 anni, non sono ben informati, e sì, secondo me, insomma, prima bisognerebbe fare una bella... insomma, bisognerebbe istruire le persone sui rischi che ci possono essere. Poi ovviamente se uno desidera farsi fare delle domande in anonimo è una scelta sua, però conoscendo tutti i rischi. Ma scusa, ma ci spieghi bene come funziona Ask, che è più credibile se lo racconti tu? Soprattutto a me che non so proprio di cosa si parli. Allora, io non sono... vado... indovino, però credo funzioni così. Ci si scrive... Ah no, pensavo fossi un'esperta, se vai a indovinare no, però... Vabbè, no, più o meno penso che funzioni così. Ci si fa un profilo e poi in anonimo ci si... cioè, puoi inviare le domande alla persona che vuoi e lui ti risponde. Oppure a tutta la comunità puoi inviare delle domande. Quindi in pratica è un Twitter per chi non sa che cosa scrivere, diciamo, è più facile rispondere a un'intervista piuttosto che fare un monologo. Però quindi... io credo che il fatto dell'anonimato sia fondamentale su quel social network, perché altrimenti si userebbero gli altri. Lì il gioco è proprio quello di, dietro l'anonimato, di potersi domandare di tutto, il che può certo. essere anche divertente e gustoso. Sì, però... soprattutto di dare delle risposte che spesso non sono la realtà, perché in realtà alle risposte vengono dati mi piace, chi ha più mi piace diciamo è più figo, e quindi tendenzialmente si tende a dare delle risposte o buffe o politicamente scorrette o sbagliatissime per avere diciamo dei comunque mi piace. Secondo me questo è un argomento che la radio immaginaria potrebbe trattare, perché è proprio una cosa vostra di adolescenti, certo. E secondo me un vostro punto di vista su questo per i vostri coetanei è interessante, che dite? Un bello spunto, va bene. Allora Giulia e Amalia, grazie per essere state con noi anche questa sera. Grazie a voi. Ci risentiamo la settimana prossima con voi della Radio Immaginaria. Adesso facciamo una breve pausa per le informazioni dai mercati finanziari. 800 24 00 24. Torniamo poi tra poco con gli ascoltatori. And now the good news. A Mestre, il titolare di un'impresa edile è riuscito a far pignorare la Deutsche Bank per quasi 100.000 euro. La banca è stata condannata dal Tribunale di Venezia alla restituzione degli interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e di altre spese non dovute. Per una volta, Davide 1, Golia 0. Si può fare l'attualità anche d'estate. E riprendiamo a sentire gli interventi degli ascoltatori al numero verde. Cominciamo con Vanni che ci chiama da Brescia. Buonasera Vanni. Buonasera, il mio intervento spero di essere conciso. La prima è che il mio intervento è a favore di Berlusconi perché lo considero innocente. Spesso sì. volte mi sono chiesto come mai prima che entrassi in politica era conosciuto come presidente del Milan, molto conosciuto. Da quando ha cominciato a entrare in politica hanno cominciato questa persecuzione giudiziaria, come la definisco pure io. Non ho le prove per dirlo, però insomma il sentore è quello. Il secondo è chi sono in una democrazia i PD e 5 Stelle per dire una persona è incandidabile. Non dimentichiamoci, cioè non sono io che devo dirlo, ma si è beccato un 4 voti alle ultime elezioni. Più legittimato di così non penso che si possa essere. Per cui mi chiedo, non sarebbe meglio che avessero degli argomenti validi da proporre piuttosto che eliminarli in questa maniera? Vabbè Vanni, se vuole sulla questione dell'incandidabilità, loro si rifanno alla legge sulla questione dei titolari di concessioni pubbliche, Mediaset, eccetera. Cioè, è una questione che ha a che fare con le leggi. Adesso per esempio Berlusconi, dopo questa sentenza, c'è una legge e non può essere più condannato, e questo è il punto. Però questo ha a che fare col nodo dell'incandidabilità, cioè col nodo di non poter ricoprire una funzione pubblica. Poi che lui possa essere il leader politico, per esempio il centrodestra, questo sì, però ci sono le sentenze e queste vanno rispettate, no Vanni? Però sì è verissimo, soltanto che chi vorrebbe vedere chiunque al posto di suo, e se non si sentisse se non si sentirebbe perseguitato dalla giustizia a cominciare dal 94, questo il mio dubbio, ecco. Penso che chiunque, se in casa mia per 20 anni mi vengono dei ladri, vuol dire che probabilmente ce l'hanno con me, per cui voglio dirmi, se tu perseguitato e io faccio in modo di difendermi. Penso che lui abbia il sacrosanto diritto di difendersi. Beh, però il paragone fra ladri e magistratura non l'ho capito, in che senso? Se per 20 anni vengono dei ladri, più che un perseguitato evidentemente c'è tante cose in casa che interessano i ladri. D'accordo, è vero, però a quel punto lì, cioè, la mia non è l'unica casa da prendere di mira, è quello che voglio dire io. No, beh, ma cui... non è che ci sono solo processi a Berlusconi, non è che, cioè, per fortuna la magistratura si occupa anche di altri. È vero, però è comunque l'unico leader politico a cui ci sono stati questi processi, e io mi chiedo, a nessuno viene sospetto che ci sia un accanimento? Insomma, anche altri ne hanno avuti di processi, anche Penati è stato, diciamo... È vero, d'accordo, però Penati è stato spostato, ha comunque ancora una sua poltrona, una sua funzione, però il casino che ha fatto per Berlusconi non l'ha fatto per Penati o per altri. È quello il mio dubbio che mi sorge dalle elettori di centrodestra, è quello che non capisco, ecco. Ma poi non penso che altra gente, cioè ci sia gente che si possa arrogare il diritto di dire c'è qualcuno, cioè, io penso che mi sembra quasi di attaccarsi in una sentenza per dire finalmente abbiamo qualcosa a cui attaccarci, per dire Berlusconi non è candidabile. Va bene, d'accordo? Vanni, abbiamo capito il suo pensiero. D'altra parte la sentenza è una cosa, la politica è un'altra. Che poi la politica sfrutti la sentenza per mettere fuori gioco Berlusconi, questo, visto che non ci sono riusciti politicamente il PD in tanti anni, questa è possibile, è una conseguenza che è possibile. Andiamo a Michela, che ci chiama da Milano. Buonasera. Sì, buonasera. Io volevo fare un appunto così da studiosa di diritto costituzionale rispetto a quanto detto prima da l'onorevole Picco del Movimento 5 Stelle, ma anche da Di Battista. Cioè, è un vergognoso che non ci sia stata una legge di iniziativa parlamentare. Non è vergognoso, nel senso che la forma di governo che è prevista dalla nostra Costituzione sì è una forma di governo parlamentare, ma è un parlamentarismo attenuato. Qui cioè, è proprio più che attenuato, è proprio moscio sto parlamentarismo, perché il Parlamento non fa niente. Dai. Sì. Ho capito, però è un su questo ha ragione, politico, cioè è difficile è dare torto a Di Battista, poi si può disquisire sulla dottrina, però... Sì, però è un momento politico istituzionale del tutto singolare, quindi che il governo, il potere esecutivo abbia un potere sicuramente maggiore che va in qualche modo anche cioè, lei dice, siccome è un momento eccezionale, quindi esatto, è giustificato. Esatto. Però guardi, le ricordo che quando il governo Monti aveva fatto, aspetti un attimo, quando il governo Monti aveva fatto il decreto per abolire le province, un anno dopo la Corte Costituzionale ha detto che non c'era urgenza e quindi ha abolito quel decreto. Cioè i governi non possono esagerare coi decreti, perché tutta questa urgenza poi viene messa in discussione dopo, fra l'altro dalla Corte Costituzionale, ma anche dal buon senso, perché sulla base dell'urgenza si decreta su tutto. E quindi questo è il mio punto di vista. Michela, voleva concludere? Sì, no, dicevo, comunque è anche vero che non è vergognoso, ecco, come è stato detto in apertura, in chiusura dell'intervento di Di Battista, che è vergognoso non ci sia stato in questo momento. Per me non è così, o comunque non è stata calpestata la Costituzione per questa ragione. No, vabbè, me. Certo, questo ecco, sì, poi era una conclusione di Di Battista. Sì, vabbè. Mi sembrano sempre conclusioni un po' forti. Grazie Michela, grazie. Andiamo, dove andiamo? A Livio, che ci chiama da Roma. Buonasera Livio. Buonasera, grazie per avermi chiamato. Prego. Non senta niente, volevo fare soltanto delle semplici considerazioni. Qui stanno cercando i soldi da tutte le parti e non riescono a trovarli. Ma sarebbe tanto facile se i politici avessero veramente intenzione di sanare un po' la situazione, cominciassero a levare perlomeno tre quarti tra onorevoli, senatori e assessori. Già con questa qui l'Italia, il popolo italiano risparmierebbe diversi miliardi, e non solo questo qui. Tanto per cominciare poi dovrebbero anche abolire tutti quegli enti inutili che servono soltanto a preparare la poltrona per quei politici che vengono trombati, perché tranne cane non morte, no? Quindi allora se lasciano un posticino, ma creano qualche altro ente per metterci l'amico dell'amico e via discorrendo. E il popolo italiano seguita a pagare, ci troviamo sempre in mezzo ai guai, l'industria soffre perché non ha i mezzi, il commercio soffre perché la popolazione non ha i mezzi. Perché va bene Livio, va bene, abbiamo capito la sua lunga concatenazione di cose. Bruce, credo che si pronunci così, da Roma. Da Roma, sì. Dunque, io non posso credere che l'ANCOR non sappia che questa qui è stata una legge, quella delle Forza. Pensioni d'oro, quella delle pensioni d'oro è stata una legge fatta da Berlusconi appena è entrato in politica. Quindi? Sì. Basata sul sistema retributivo, cioè l'ultimo stipendio che ha preso questi grossi grandi manager che sono stati 2-3 anni dentro l'azienda. Sì. Capisce? Questo è vero. Anzi, rettifico una cosa che quindi ho detto prima, perché è molto giusta la cosa che stai dicendo, che in realtà in questo modo quindi non è basato su quanti soldi loro hanno effettivamente versato, ma sull'ultimo stipendio che avevano. Quindi se uno ha fatto il mega manager solamente negli ultimi 2 anni, però per 42 anni invece faceva lo spazzino, aveva una pensione d'oro. Quindi mi correggo. Quando te lo dicevo io non mi hai voluto credere, ha detto ma, Bruce, ci hai creduto. Me l'ha detto Bruce, esatto. E anche degli altri ascoltatori con sms e dei tweet, e quindi chiedo scusa. Ha capito Bruce il suo intervento? Questa cosa qui, come l'ha fatta Berlusconi, può essere disfatta, se fa, anche se si deve fare una legge costituzionale, perché questo qui è stato un furto che loro hanno fatto. Ma guardi, oggi le pensioni non si prendono più sulla base di quella legge lì, che ce ne sono altre di legge sulle pensioni. Il problema è come il contributivo, è come smontare queste pensioni che sono francamente si scontano, alte, folli, non si so come definire. Ma scontano, il sistema c'è, questi due gruppi, destra e sinistra, sono inetti. Non sono capaci di fare niente. Faccio un esempio, va bene? Adesso, a parte le pensioni, perché le pensioni dicono che non si può fare, tutte e due lo dicono che non si può fare, non è vero, capisce che non si può fare, si può fare. Cioè una legge, diciamo, retroattiva che vada a bloccare queste pensioni, questo che sta dicendo? No. Che le vada a dimezzare, come minimo dimezzare, ma io non dico, ma insomma uno se invece di prendere 90 al mese ne prende 40, ma che va rovinato? Va bene, grazie Bruce, grazie. Adesso proviamo subito a girare la domanda a Michele Emiliano, sindaco di Bari. Buonasera Michele Emiliano, come va? Buonasera a tutti. Lei che è anche magistrato, tra l'altro, e quindi di leggi se ne intende, come si può fare a correggere questa cosa delle pensioni d'oro? C'è una proposta del PD su questo? Il problema è che la Corte Costituzionale considera la pensione un diritto appunto quesito, cioè determinato una volta per tutte, e quindi la legge ordinaria, quella che approva normalmente il Parlamento, non sarebbe sufficiente per demolire questo diritto quesito, occorrerebbe addirittura una modifica costituzionale. È naturalmente inutile dire che il processo è molto complesso, e peraltro queste persone che hanno retribuzioni e pensioni di questo livello non sono propriamente degli sprovveduti, cioè normalmente appartengono a lobby molto forti che sono in grado in Parlamento di esercitare un'influenza altrettanto forte anche quando sono in pensione. E quindi è molto complicata, nel senso che... Cioè dobbiamo arrenderci a questa cosa qua, basta, ci no, sono queste pensioni... No, non è che ci dobbiamo arrendere, si potrebbe immaginare una norma costituzionale che consenta nei casi, per esempio, di grave crisi economica e finanziaria del Paese, senza evidentemente colpire... oltre un certo livello, perché la logica delle sentenze della Corte Costituzionale che definiscono i diritti quesiti è sostanzialmente questa persona ha consolidato un diritto, sulla base di quel diritto ha programmato la sua vita, per esempio ha fatto un mutuo, dei debiti, degli investimenti, quindi fargli venire improvvisamente meno ciò che invece è apprestato perché lui possa proseguire la sua vita in quel modo è un'operazione costituzionalmente corretta. Gli esodati se la sono presa in quel posto, però anche loro avevano progettato esempio, di fare qualcosa. Sono convinto che il meccanismo degli esodati ha a che fare con la truffa, che è il 640 del codice penale, se interessa, perché prima li hanno indotti a fare domanda di pensione e poi li hanno lasciati senza la pensione, cioè qualche cosa che è veramente totò truffa, insomma, è come vendere la Fontana di Trevi a qualcuno, una cosa sconcia, non solo incostituzionale. Però se il Parlamento non riesce a intervenire su questa cosa qua, che secondo molti o quasi tutti insomma andrebbe corretta, allora verrebbe a dire il Parlamento, come dice Di Battista dei 5 Stelle, è inutile, cioè è inutile, non, a che serve? Cioè... Beh, ma sono 20 anni che il Parlamento sostanzialmente non ne becca una, nel senso che noi siamo riusciti a mettere insieme qualche legge di una qualche efficacia, per esempio contro la mafia, solo quando ci hanno fatto saltare per aria, cioè quando hanno fatto saltare per aria qualche magistrato, allora a malincuore in qualche modo siamo riusciti a mettere insieme delle leggi che ci hanno consentito, sia pure per pochi anni, poi subito sono tornati indietro, hanno fatto saltare la legge sui pentiti, volevano addirittura mettere in discussione le leggi sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali, volevano ridurre i tempi delle indagini, accelerare la prescrizione, perché

15 dei quali sono però, scorta, nessuno si è mai lamentato della mia imparzialità. Però accetterà il ruolo che le danno, il CSM o farà come Ingroia che ha fatto. No, guardi, a parte che a Aosta sarebbe un posto meraviglioso. Ci andrebbe, lei ad Aosta ci andrebbe. Ci andrei, come si dice, di corsa. Anche solo per cambiare un po' aria. Ma anche perché, siccome io devo essere sincero, forse mi mancherebbe il mare, però ogni tanto la montagna può far bene. Dobbiamo salutarci, grazie. Un Michele Emiliano, sindaco di Bari, per essere stato con noi. 800 24 0024, tra poco dopo la pausa. And now the good news. Venditore ambulante senza permesso di soggiorno che il 30 marzo ha sventato una rapina in una focacceria di Bari, dimostrando coraggio e senso del dovere. Da allora i cittadini baresi hanno lanciato una petizione per fargli ottenere il permesso di soggiorno per motivi civili. Come si dice, Fratelli d'Italia. Si può fare l'attualità anche d'estate. Allora, sentiamo Gianluca che ci chiama da Milano. Buonasera. Buonasera. Prego. Sarò brevissimo perché stasera ne ho per tutti. Vada. A partire da voi. Sì. Allora, lo Ius Soli non riguarda le persone che sono qui in Italia. Quella donna, perché non è né una signora né un ministro, al di là del fatto che è entrata in Italia abusivamente, ma di questo sì, è un vanto. Ma quale donna, scusi? Quella di colore che abbiamo nel Consiglio dei Ministri, quella scura, quella di pelle nera. Detta anche Cécile Kyenge, il ministro. Detta anche, ma cioè, ministro, lasciamo perdere, perché l'ignoranza di quella persona... Non lo vuole dire? Le fa schifo dire la parola ministro? No, non mi fa assolutamente schifo, ma i ministri sono un'altra cosa, signori. E cosa vuol dire ministro? Lei è ministro, è come tutti i ministri. No, assolutamente. No, assolutamente. Perché no, scusi, è un ministro... Ma perché è un'ignoranza tutta prova. Ma guardi questa che di ministri può darsi che la Kyenge sia ignorante, ma di ministri ignoranti, guardi, facciamo una lista, ci mettiamo qua e facciamo mattina, perché ne abbiamo avuti questa, di ministri. Ma questa fa lezione, segna lo standard. Allora, pretendere che lo Ius Soli diventi legge significa fare in modo che tutte le donne incinte che stanno in Africa, che povera, cioè, stanno in una situazione atroce, vengano in Italia, partoriscano nel centro d'accoglienza e quel bambino è italiano. Dopodiché c'è il ricongiungimento, non vorremmo mica mandar via la madre, vero? Assolutamente no, ci mancherebbe separare un bambino dalla mamma. Guardi Gianluca, questa cosa qua che molti dicono giustamente perché potrebbe essere una preoccupazione legittima, io credo però, non voglio fare lezione a nessuno, ma credo che anche da quello che ha detto lei, Cécile Kyenge, Ius Soli temperato, non è questo, cioè si tratta di genitori che risiedono in Italia da un po' di tempo, quindi non è la naufraga che viene a partorire a Lampedusa, perché questo non darebbe diritto secondo quella che è la proposta del ministro, che poi non c'è neanche una legge, si figuri, stiamo parlando di proposte, però la sua non è la proposta non è come dice lei, si parla di genitori in Italia da un po' di tempo. Quindi è chiaro, perché se fosse come dice lei, si correrebbe il rischio di creare una sala parto gigante in tutta la Sicilia. E questo sì, ma non è questa la proposta. Ho due genitori che mi vogliono bene, mi hanno mandato a scuola a studiare e ho studiato anche latino. Ius Soli è un'altra cosa. Che dopo, appunto, la donna sia tutta prova di ignoranza e non sa quello che sta dicendo e quindi... fuorvia con le parole, ma lo Ius Soli. No, ma guardi, anche lei si dimostra di essere un po' ignorante se non accoglie quelle che sono le parole che sono state dette, se non legge i giornali, se non si informa. La proposta del ministro Kyenge non è quella che dice lei. Quindi, se lei dà dell'ignorante alla Kyenge, do dell'ignorante a lei perché non si informa. E questo siamo pari a questo punto. Io mi informo e quello che leggo fa semplicemente schifo. Veniamo al discorso delle pensioni. Quelle da 90.000 non si toccano. Com'è che si toccano quelle da 1.000-2.000? Perché a un certo mio papà, qualcuno ha tolto il 15% della pensione negli ultimi anni. Ah, quindi non si toccano quelle da 90.000 perché un diritto acquisito, poveracci, si sono fatti il mutuo per la barca da 200 metri. Mentre chi ha una pensione da 1.000-2.000 euro, con quello che mutuo vuoi fare? Assolutamente nessun mutuo, quindi togliamogli pure il 15%. Veniamo pure all'altro fatto che mio nonno... E abbiamo le carte. Lei sta della citando tutta la sua famiglia, ci sta facendo tutto l'albero, signori, genealogico. Sì. Tutto l'albero genealogico. In 30 secondi per chiudere, Gianluca, l'ultima cosa che voleva dire sul suo nonno. Mio nonno ha pagato di più per avere una pensione più alta. Quando è andato in pensione gliel'hanno dimezzata, sono andati in tribunale, il giudice gli ha dato ragione ma ha anche detto: ma lo Stato ha bisogno di soldi, quindi non vi diamo la pensione. Viva l'Italia! Grazie Gianluca. Titoli del TG1. Berlusconi, IMU su prima casa non si deve più pagare, alla base dell'esecutivo Epifani si sbaglia, non è in accordo di governo. Il premier Letta sull'IMU, soluzione a fine agosto, governo più saldo di quanto si pensi, ripresa c'è ma va legata al lavoro. Diffusi fotogrammi per individuare l'uomo che ha ucciso la gioielliera di Saronno a calci e pugni, numero verde per le segnalazioni. Niscemi, tensione durante la manifestazione contro il sistema radar americano, scontri con la polizia, attivisti saliti sulle antenne. Una storia commovente dalla Cina, un bimbo cade in un pozzo, il nonno riesce a salvarlo restando con lui per 12 ore ma poi muore. Dopo le settimane più calde e violenti temporali al nord, da domani anche nel resto d'Italia, roghi e polemiche in Friuli e Sardegna. Al TG1 la campionessa azzurra Chiara Cainero, oro nel tiro a volo agli europei in Germania, sul podio al quinto mese di gravidanza, ci dice: a mio figlio spiegherò che i grandi obiettivi si realizzano solo con i sacrifici. Oh, allora, il signor Gianluca di Milano, che era parecchio infervorato e su alcune cose non aveva neanche tutti i torti, io ho detto che non ha seguito l'evoluzione del dibattito sul Ius Soli e la proposta del ministro dell'integrazione. È vero che i politici giocano sulle parole, è vero che la Chiesa ha detto inizialmente Ius Soli e poi ha parlato di Ius Soli temperato, però facciamo un passo avanti. Se adesso la proposta è questa, dobbiamo discutere di questa, non di quella che era prima. E la proposta, sentiamola nelle parole del ministro, è questa qua. In questo momento si va verso la forma temperata. Io penso che un bambino che nasca in Italia da un genitore che ha fatto un percorso di integrazione in Italia, quando nasce, alla nascita i genitori possono scegliere se diventare italiano oppure mantenere la propria nazionalità. Dobbiamo dare la scelta ai genitori di poter farlo, perché hanno fatto già un percorso di integrazione. Quindi si parla di genitori che hanno fatto un percorso, io non so esattamente cosa vuol dire, ma certo non vuol dire la signora che partorisce appena sbarcata o arrivata da poco in Italia, perché non è questa al momento la proposta del ministro. Poi uno può essere contro anche quella, è importante, anche perché quella non ha fatto un percorso, di cosa quella ha fatto la traversata. Parlando questa non è male. Andiamo agli ascoltatori, che sono al numero verde 800 24 00 24, a cominciare da Pietro, che ci chiama da Lodi. Benvenuto. Pronto? Pietro? Sì? È in onda, prego, tocca a lei. No, io volevo solo sapere come fare a pagare l'IMU, visto che sono esodato e col decreto Fornero non posso neanche lavorare. Come faccio a pagarlo? Io non lo so dire però come fa. No, è un controsenso. Sì. Cioè, hanno fatto le tranche degli esodati. I primi 65.000 che non possono lavorare, i secondi 65.000 neanche con ritenuta d'acconto, e i terzi invece possono lavorare con una ritenuta d'acconto di 7.500 euro, anche lavorando in regola. E invece per pagare l'IMU bisogna delinquere. Mi dica lei come si fa a pagarlo. Grazie Pietro, grazie per il suo intervento un po' provocatorio, ma è così, insomma. Sergio da Verona, buonasera. Buonasera e buonasera. Prego. A tutti gli ascoltatori. Io, tornando a casa in macchina questa sera, ho sentito l'intervista che avete fatto al miglior fico del Bigoncio. E c'era una cosa che un po' mi disturbava, il fatto che ha affermato che non c'è nessuno che si occupa di finanziamento pubblico a parte i 5 Stelle. Io capisco che questi siano dei neofiti di certi argomenti, ma i loro vuoti mentali vorrei capire se sono voluti o se esistono realmente. Volevo solo ricordare che i radicali hanno per ben 3 volte raccolto le firme per un referendum per abolire il finanziamento pubblico dei partiti o rimborsi elettorali, come tentano di spacciare ultimamente. La prima volta non ha raggiunto il quorum, la seconda volta è stato stravinto e la terza volta non c'era un numero insufficiente di elettori. Però attualmente stiamo raccogliendo per la quarta volta, insieme ad altri referendum, le firme per abolire il rimborso elettorale. Questo era quello che mi interessava. Va bene, una precisazione nei confronti dell'onorevole Fico. ricordando il ruolo dei radicali su questa questione qua. Gabardini, abbiamo qualcosa che ci stuzzica su Twitter? Su Twitter si parla del fatto che forse Eto'o torna all'Inter, non so, ci interessa? Beh, agli interisti sì, sicuramente. Esatto. Cos'è, un top trend? Sì, appena entrato nei primi 10 trending topic. Massimo da Lecce, buonasera. Buonasera. Prego. Io sto chiamando per diciamo attirare l'attenzione su un fatto che sta accadendo in questi giorni e vorrei che gli italiani si rendessero conto di quello che succede alle nostre spalle. Cioè, mentre la Sardegna sta bruciando, non si riesce a fermare in tempo questo enorme e gigantesco fuoco perché mancano i Canadair. Noi ci stiamo impegnando per spendere 60, 70, 80 miliardi per comprare di gli F-35. Gli F-35, sì. Ma ha detto l'onorevole Boccia del PD che gli F-35 servono anche per spegnere gli incendi. Mi pare che ci sia una dichiarazione sua di questo tipo, eh? Quindi volevo, posso? Sì. No, pensavo che servisse per smorzare un po' la... Sono a favore ideologicamente di questo progetto che cominciano a parlare di commesse, di posti di lavoro, eccetera. Voglio ricordare che comunque siamo stati pubblici. Cioè non la sentiamo più, Massimo, grazie, non sentiamo più la sua voce. Vi voglio ricordare anche una notizia, perché qualche giorno fa abbiamo intervistato il sindaco di Roma Alemanno, con lui abbiamo parlato anche del progetto di discarica falcognana, perché ricordate che la mattina di sabato, quando a Roma si sono inaugurati i fori imperiali pedonalizzati col sindaco Marino, Alemanno era dall'altra parte a protestare con i comitati antidiscarica. Oggi è arrivata una decisione, il ministro dell'ambiente, il sindaco Marino e il presidente della regione Zingaretti hanno firmato col commissario per l'emergenza rifiuti in Lazio Sottile proprio questa cosa qua, cioè il via libera al post Malagrotta che sarà Falcognana. Ora io non so quanti altri via libera dovranno arrivare, perché in Italia di passaggi ce ne sono sempre tanti, forse troppi, però questa è la notizia di oggi. E guarda, a proposito della pedonalizzazione dei fori, Alemanno sì, ha twittato 2 ore fa: pedonalizzazione fori, si prendono decisioni senza ascoltare i cittadini e senza pianificazione, così si creano solo traffico, caos e disagi. Visto che parlavamo del fatto che lui è andato in piazza mentre Marino si stava occupando dei fori, che abbia fatto tutto in fretta Marino, questo l'abbiamo detto tutti. Ma che poi è strano, proprio, perché è sempre strano, perché faceva lui prima il sindaco, adesso che vado in piazza così sembra un po' come se quelli del piano di sopra fanno una festa e non ti invitano, allora tu alzi la musica fortissimo per dire: come, non mi avete invitato anche me? Prima mi invitavate, adesso non mi invitate più. Il cambio di casacca di Alemanno, prima sindaco, poi capo popolo, è stato sottolineato sui giornali. Giusto per dire che i comitati no discarica vanno avanti con le loro proteste, c'è il capo della protesta che è in sciopero della fame e dicono: respingiamo questa ipotesi scellerata fondata su un'istruttoria del tutto inconsistente. Questo giusto per dare una notizia di oggi. Andiamo ancora con i vostri interventi, ascoltatori. Andiamo con Antonio da Napoli. Buonasera. Pronto, buonasera. Prego. Antonio da Napoli. Sì. Senta, volevo intervenire riguardo all'intervista di Roberto Figo. Fare 2 appunti in ambito giornalistico. Lei ha detto a Figo, ha sottolineato che la presenza del Movimento 5 Stelle all'interno del Parlamento, proprio per la loro posizione di opposizione, non gli permette di fare di attuare il loro programma, ma funziona così in democrazia. Cioè, il momento in cui il Movimento 5 Stelle diventerà maggioranza, in democrazia e in generale nei sistemi politici funziona il rapporto di forza. C'è una maggioranza, c'è un'opposizione. Il giorno in cui il Movimento 5 Stelle diventa forza, potrà attuare il suo programma, è normalissimo. Quindi sì, però lei sa anche, Antonio, no certo, scusi, preciso solo questa cosa qua, lei sa anche però che in politica le alleanze si fanno, stare da soli e fare il monocolore non c'è riuscito mai nessuno, forse è un male anche dell'Italia che si fanno delle alleanze e poi si perdono i contenuti perché uno deve contentare l'altro, l'abbiamo visto insomma dall'Ulivo. Anche la coalizione di centrodestra ha avuto dei problemi di questo tipo qua, Fini, Casini, che sono andati via sbattendo la porta. Può darsi che sia così, però il tema delle alleanze in politica c'è, e questa è la domanda a Fico. Dopodiché poi che quando è nell'opposizione... Si fa anche tanta politica all'opposizione comunque, sì. Non è che quella non sia politica e non si prendano decisioni. Antonio, prego. Una legge elettorale un po' decente, tipo il modello francese, forse non ci sarebbe nemmeno bisogno, perché... È verissimo, questo è verissimo, sì. Certo. Perché... Poi l'altro appunto che le facevo riguardava sempre il suo intervento riguardo all'IMU, perché se il Movimento 5 Stelle propone l'abolizione dell'IMU è credibile perché non Berlusconi, perché Berlusconi invece non lo è, non è una questione di pregiudizio. Io non sono un elettore del Movimento 5 Stelle, però le posso dire una cosa. Secondo lei è credibile una persona che nel governo Monti, dove il suo partito era maggioranza, sto parlando del governo del partito di Berlusconi, e ha votato quella legge, può essere credibile una persona che vota l'IMU, cioè fa passare l'IMU e poi dice no, l'IMU non va bene, scaricando tutta la responsabilità sugli altri? L'ho detto, era un partito, era un governo tecnico, ma il suo partito era maggioranza, se l'IMU non gli andava bene potevano evitarlo e quella legge non sarebbe passata. E le uniche che si appellano alla responsabilità nazionale, cioè loro non gli va bene. È vero che quella legge serviva per coprire il problema del debito pubblico. Sì. Però mi scusi, è vero quello che lei dice, però noi sappiamo anche tutti benissimo che se il PDL avesse governato da solo, così come ha tolto l'ICI, non avrebbe rimesso l'IMU. E qui su questo è coerente Berlusconi, si può dire tutto, ma non che non voglia togliere l'IMU, perché l'ha sempre detto e anche l'ha fatto, quindi... Dopodiché poi che si nasconda dietro quello che è successo col governo Monti, in governo di coalizione, può darsi. Però Antonio, prego, vuole finire? Io sì. Sto dicendo che l'IMU è l'effetto di una cattiva politica perpetratasi per anni. Va bene, ma cos'è l'IMU lo sappiamo tutti. Antonio, grazie Antonio, buona serata. Adesso facciamo una pausa per il traffico, good news, e poi torniamo ancora con qualche intervento. Abbiamo già degli ascoltatori in linea al numero verde, poi chiudiamo con la bella storia anche questa sera. Yes. And now the good news. A Genova il comune dichiara guerra alle slot machine che stanno dilagando sempre di più. Nel capoluogo ligure è stato approvato un regolamento che impone la chiusura delle macchinette mangiasoldi alle 9 di sera. Anche la regione Liguria ha messo dei limiti all'acquisto di nuove slot machine. Genova scommette, ma sulla salute. Si può fare l'attualità anche d'estate. Riprendiamo con Luigi che ci chiama da Verona. Buonasera Luigi. No, Luigino. Luigino, vabbè. Sì, Luigino. Sono io. Sì. Allora, guardi, dichiaro guerra allo Stato italiano, naturalmente economica, nel senso che io da oggi non pagherò mai più l'INPS, perché... Che cosa non paga più? Non pago più l'INPS, cioè le pensioni, cioè io non voglio più saperne di queste cose che pagano 90.000, 91.000 euro al mese. Io sono un artigiano, non pagherò mai più l'INPS. Mi vengono a prendere con carro armato, mi portano in prigione e costo 250 euro al giorno allo Stato italiano. Io non pagherò da oggi, ma non sto scherzando, Io non pagherò mai più l'INPS. Ma perché, scusi, ma lo dice perché è indignato per queste pensioni, per pensioni d'oro troppo alte? Ha ragione. No, volevo capire, non avevo un'opinione, volevo capire il motivo o se era successo qualcos'altro. Ma il motivo, ma ragazzi, ma stiamo scherzando, cioè io sto pagando per queste persone qua, ma è inverosimile, io ho 58 anni. Lei che lavoro fa, scusi, Luigi? Io sono un artigiano. Di cosa si occupa? Un falegname, artigiano, restauro. Perfetto, mobili. Perfetto. Ah, di quelli che non ci sono più, che bisogna sempre cercarli. Siete pochissimi. Ma, ho capito, ma a parte il fatto che è impressionante cosa sta succedendo, ma al di là di questo, ma non si può. Cioè, ma io quando ho letto stamattina ho sentito... io mi sono sentito svenire, insomma... Ma è inverosimile, cioè 91.000 euro al mese. Ma ragazzi, io, ma è fuori di tutti i sette sentimenti, non lo so. Guardi, Luigi, che la maggior parte di noi quando hanno letto quelle cifre hanno reagito come lei, perché insomma, per il 99% dei comuni mortali quella cifra lì è astronomica come stipendio, figuriamoci, esatto. come pensione, che poi per chi è della nostra generazione la pensione non sa neanche se come la vedrà, figuriamoci pensare 90.000 euro di pensione al mese, è un'assurdità. E lei ha detto bene che si vuole barricare coi carri armati e non pagare più le tasse, è comprensibile. Poi ho voglia a te di parlare di diritti acquisiti, che non c'è mica solo quello del signore che guadagna 90.000 euro di diritti acquisiti, ci sono anche quelli degli altri. Andiamo a Franco che ci chiama da Milano. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. Niente, io è da tempo che dico che per sistemare le cose occorre un dittatore democratico, chiamatelo come volete, perché tanto tutte queste discussioni... Ecco sono perché Razzi che... e i romani sono andati in Corea del Nord, forse, a cercare... No, no, ma ho capito, però... Comunque... Ma ci proponga un nome per un dittatore democratico. Io, perché io sono una persona intelligente, perché tolgo subito la pensione e chi con un giorno di Parlamento si prende 1.700 euro. Chi 90.000 al mese, gliela tolgo subito, gliela di mezzo, almeno di dimezzarla. Ma ci rendiamo conto, cioè, che gli italiani veramente sono esasperati. Adesso dallo spreco siamo passati al prosciutto crudo, alla mortadella, fra un po' ci tolgono la mortadella. Quando ci toglieranno il pane, allora ci sarà la rivoluzione e veramente li metteremo a rogo. Ma cosa aspettano questa gente qua a capire cosa significa stare sul mondo del lavoro e capire cosa vuol dire versare l'INPS come quel signore di prima che ha telefonato? La gente ne ha piene le balle, ma non ce la fa più, è esasperata. Grazie, grazie. Andiamo a un altro ascoltatore, Daniel da Cuneo, buonasera. Sì, buonasera. Io volevo dire che in realtà ci dovrebbe essere un sistema per abbassare queste maxi pensioni e quello di lavorare sulle aliquote delle tasse. Sostanzialmente basta portare l'aliquota massima al 95% del valore dell'imponibile e automaticamente la pensione è abbassata. Vabbè, però Costituzione... per tutti quelli che guadagnano più di 90.000 euro... Al 95%? No, sulle pensioni, perché le tasse sul reddito non mica per forza sono uguali. Sul reddito pensionistico si porta la tassa altissima e non è assolutamente anticostituzionale. La Costituzione impone che ci sia una scalarità delle aliquote, ma non impone... Non lo so, magari la sua è un'idea. Grazie intanto per l'approccio, diciamo, propositivo che ci sta fra le tante cose. Fabrizio da Genova, buonasera. Buonasera, salve. Solo tre cose. Sì? Intanto complimenti per la trasmissione, siete dei validi sostituti. Grazie. Grazie. Una cosa, esistono delle regole, giusto? Sì. In ogni paese civile esistono delle leggi e vanno rispettate. Di cosa sta parlando però, Fabrizio? Fare. Bisogna rispettare le leggi tutti. Se la legge è uguale per tutti, una persona viene condannata, va. Comunque rispettata la legge. Poi si faranno corsi, ricorsi, che mi sembra che se ne sia fatti abbastanza, e si vedrà di trovare una soluzione che sia corretta, giusta, seguendo sempre le leggi. E tutte queste persone che chiamano quello di prima, che secondo lui è innocente, ma ho capito, ma ci sono dei giudici che l'hanno ritenuto colpevole, cioè mica... Va bene, Fabrizio, abbiamo capito, tra l'altro è un punto di vista che abbiamo già sentito in questi giorni sull'applicazione della sentenza. Adesso ci prendiamo un attimo, perché siamo in chiusura e adesso è il momento della nostra bella storia. Chiusura anche della settimana. Della settimana, quindi tiriamo un po' il fiato, venerdì è proprio una favola questa qua, una bella favola, che ha per protagonista un maestro in pensione. Sentiamo. Abbiamo convocato con piacere, lo ritroviamo, l'abbiamo intervistato nel weekend, si può fare, di questa stagione che si è appena chiusa, Antonio Lacava. Buonasera maestro in pensione, naturalmente con pensioni ben diverse da quelle dei super pensionati d'oro, immagino. Sì, certamente. E lei vive nella città di? Io sono di Ferrandina, in provincia di Matera, regione Basilicata. Oh, una regione bellissima, Basilicata, coast to coast, il film, sì, citazione. E Matera, bellissima. Lei è protagonista di questa iniziativa, il Biblio Motocarro. Lei da un po' di tempo va in giro con un'ape trasformata a mo' di biblioteca ambulante, porta i libri ai bambini dei piccoli paesini, delle città dove non ci sono magari librerie, non ci sono biblioteche, arriva lei e continua così quello che è la sua attività, cioè il maestro. Lei ha fatto il maestro per quanti anni? Un po' maestro di strada, diciamo. Riesco a coniugare il mio essere maestro con un po' l'ambizione che ho sempre avuto di sentirmi un po' maestro di strada. Lei ha avuto dei premi, dei riconoscimenti anche per questa iniziativa, è stato al Salone del Libro di Torino, ne ha fatta di ogni. No, indubbiamente in questo periodo sto avendo molta notorietà dopo anni in cui magari ho vissuto solitudine e indifferenza, e adesso vengo ripagato forse anche in maniera eccessiva, a dimostrazione tuttavia che l'idea era sicuramente vincente, quello di avvicinare i libri ai bambini, ma anche forse che il vento nel nostro paese è cambiato, cioè c'è maggiore attenzione verso le cose umili, verso le cose semplici, verso le cose spontanee. Maestro Lacava, lei, scusi se la interrompo, quanti avrà fatto un conto, non so, quanti bambini ha incontrato, quanti libri ha dato in prestito, ce l'ha un taccuino? Una volta avevamo il registro dei prestiti, lei mi dà la possibilità di dire questa cosa. Avevamo il registro dei prestiti che era curato dai bambini stessi, che erano i bibliotecari di quartiere. Adesso è eliminato anche i bibliotecari di quartiere, c'è un rapporto diretto tra i bambini e gli scaffali, del bibliomotocarro. Cioè io arrivo in una piazzetta, in un paese, in un borgo, in un angolo di strada e vengo letteralmente assediato da questi bambini. Ieri sono stato in una splendida cittadina in provincia di Salerno. Ah, quindi lei non si ferma neanche per le vacanze? Sì, adesso praticamente mi succede questo, che vengo chiamato un po' da tanti paesi, sì, e la caratteristica del bibliomotocarro è quella di rispondere a chiunque chiami. Perché si è sparsa la voce, quindi adesso è lei che viene chiamato, non deve più andare. Sì, ma come funziona la restituzione? Non ho capito, uno prende un libro e poi quanto tempo ha per prima di ridarglielo? Diciamo abbiamo un tempo che oscilla intorno al mese, ma a proposito della restituzione, le devo dire questo, siccome adesso dicevo ho eliminato anche i registri... Infatti mi chiedevo come funzionasse. A memoria? E funziona praticamente a fiducia, cioè c'è un tale rapporto tra i bambini, tra i fanciulli, tra i ragazzi, il bibliomotocarro, che nessuno si sottrae alla restituzione. A questo riguardo devo riferire una storia veramente bellissima. Circa un mese fa io ero a passeggio con i miei amici e praticamente sono stato avvicinato da una macchina che proveniva da un paese vicino, Pisticci, dove io mi ero recato appunto un mese prima per fare questa attività di promozione della lettura. La mamma ha aperto il finestrino e mi ha detto: maestro, lei è il maestro del bibliomotocarro? Sì, sono il maestro del bibliomotocarro. Le ho portato il libro che mia figlia non è riuscita a restituire. Un mese fa. Questo è splendido, cioè praticamente è venuto da un paese lontano a riportare il libro. Questo significa che il bibliomotocarro non fa solo attività di promozione della lettura, ma va oltre. Ma crea anche legami, relazioni. E socialità, è bellissimo. E fiducia. No, no, no. Ma quanti libri invece le hanno fregato la cava? Sia sincero però, Sì, sicuramente tantissimi. Sicuramente tantissimi. Ma come? Appena detto, c'è fiducia, no, no, nessuno porta via niente, poi mi dice però tantissimi. C'è sempre quello che fa il furbo, sì. Tanti libri i primi anni, quando appunto, c'era il registro. Prego, quando c'era ancora il registro. Questo è bellissimo. Quando avevamo tanti registri, perché erano tanti registri quando erano le fermate nei vari. Il registro fa l'uomo ladro, direi. L'assenza del registro. Senza, maestro, una cosa però la dobbiamo chiedere perché siamo quasi in chiusura. Non so, il libro più richiesto, più letto, qual è? Beh, intanto la letteratura classica. La letteratura classica che non manca nel bibliomotocarro. Poi ci sono i libri che affascinano perché c'è pubblicità, da Geronimo Stilton a Scooby-Doo. Anche se io propongo sempre nuovi autori. Bravo, mi raccomando, l'innovazione. Grazie maestro, noi dobbiamo fermarci qua, sarebbe un piacere stare a parlare con lei. Vedremo, magari lo richiamiamo. È tutto per questa puntata, per questa settimana. Io voglio ringraziare Laura Faggini, Riccardo Buccero in redazione, Andrea Piana che ci aiuta a scrivere il programma, Valeria Bernardi in regia, Rosa e Silvia al centralino con il loro contributo preziosissimo perché ci aiutano a smistare le telefonate. Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Io saluto tutti, soprattutto chi ci ascolta in podcast. Ci sentiamo lunedì 18:20-18:30. L'orario si può fare l'attualità anche d'estate. Le 18. Ciao. Buon weekend.